Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Maneggiare oggetti delicati e di forma irregolare è una delle grandi sfide da superare prima di riuscire a portare il robot fuori dai laboratori e farli lavorare nel mondo reale, magari di fianco all'uomo. Uno dei progetti più all'avanguardia in questo settore è il progetto SOMA, che sta per Soft Manipulation, che è stato sviluppato nell'ambito del programma Horizon 2020, ed è un progetto che mira a realizzare dei robot capaci di riconoscere gli oggetti, che siano bicchieri, fragole, pacchi di pasta o qualunque altra cosa, e di manipolarli con le dovute attenzioni. I risultati del progetto hanno, e questa è la notizia più recente, attirato l'attenzione di Ocado. Ocado è il più grande supermercato online del mondo, l'unica in pratica azienda alimentare che ha negozi solamente sul web. Ebbene, Ocado vorrebbe i robot messi a punto da Soma come fruttivendoli nei propri magazzini, insomma a preparare la spesa poi da spedire. Ne parliamo con Arash Ajudani, che è ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che insieme all'Università di Pisa ha rappresentato l'Italia nel team di progetto di Soma. Buonasera, buonasera Giudani. Buonasera, salve. Allora, intanto se ci descrive un po' questi robot, come si presentano. Noi in progetto Soma, il nostro primo obiettivo è di sviluppare mani robotiche, come ha detto lei, che sono intelligenti, che è importante che siano delicate ma anche forti. Questi mani saranno montati su braccia robotiche che utilizzeremo per afferrare oggetti, ad esempio le frutte o altri oggetti che saranno manipolati dentro Ocado o supermercati digitali. Ecco, che cos'ha di speciale questa mano? Quali sono gli aspetti più difficili svolgere un'operazione del genere? Quindi un braccio che riconosce degli oggetti, una mela piuttosto che un pacco di insalata, ed è in grado di afferrarla e posizionarla senza distruggerla. Sì, importante, perché per prendere un oggetto noi dobbiamo prima capire che forma, la forma dell'oggetto. Per questo qua noi utilizziamo un feedback di forza anche unito con un feedback visivo, e grazie di questi feedback capiamo, e il robot capisce da solo che forma ha, poi inizia di prendere l'oggetto automaticamente. Quindi fa un po' quello che facciamo noi esseri umani, no? Che utilizziamo sia la vista che il tatto per adeguare la nostra presa all'oggetto. Esatto, assolutamente sì. Ed è capace, mi spiegava prima, sia di delicatezza che anche di forza, però io ho visto che queste mani sono anche in grado, non so, di girare una chiave, che è una cosa che richiede una certa forza. Sì, molto importante questo, perché per noi, noi dobbiamo prendere un oggetto come una fragola, che è molto delicato, anche dobbiamo essere capaci di prendere oggetti più pesanti o più rigidi, che pesano di molto di più. Ecco perché dobbiamo essere capaci di regolizzare la forza della presa, anche il movimento della mano. Un altro aspetto innovativo della vostra ricerca consiste nella capacità di questo robot, diciamo, di sfruttare a proprio vantaggio l'ambiente circostante. Che cosa vuol dire? Sì, volevo farvi un esempio. Ad esempio, sì, se vogliamo prendere una moneta della scrivania, noi umani cosa facciamo? Facciamo scorrere sulla superficie fino al bordo e poi prendiamo l'oggetto. Perfetto. Ecco, questo è il nostro obiettivo, per utilizzare questi mani per prendere oggetti utilizzando ostacoli ambientali. Anche questa è una cosa molto nuova per questo mondo robotico. Ecco, non so se riusciamo bene a spiegare agli ascoltatori che è facile, relativamente facile, programmare un robot per fare qualcosa di predefinito. È molto difficile conferire a un robot la capacità di adattamento. Infatti, direi per prima volta che stiamo facendo questo lavoro, non ho mai sentito in altri progetti europei che noi utilizziamo questo concetto di utilizzare ostacoli ambientali per manipolazione dei oggetti in un ambiente come che abbiamo spiegato prima. Ecco, un altro aspetto innovativo è di utilizzare il minimo numero di attuatori, cioè di motori. Di motori, esatto, ottenendo però il massimo della mobilità e della capacità di manipolazione degli oggetti. Voi ne usate quanti? Noi stiamo investigando, per ora stiamo usando uno. Ah, solo uno? Esatto, solo uno, che replica principale il movimento della mano umano, che si chiama First Synergy. questi robot quando potrebbero esordire all'interno di questa catena commerciale? Tra l'altro una notizia di questi giorni che arriva dalla California, dove c'è un'altra catena di fast food che si chiama Cali Burger, che sta sperimentando un robot cuoco, si chiama Flipper, che per il momento è specializzato nella cottura degli hamburger, ha proprio una manona con una paletta, li tira su, li gira, e però può svolgere molti altri compiti. Insomma, stanno arrivando adesso queste soluzioni. Vero, guardi, fondamentalmente sia il nostro progetto, sia questo che di cui sta parlando lei, hanno in base gli stessi ingredienti, sono capacità di manipolazione degli oggetti e intelligenza artificiale. Ci vorrà un paio di anni per globalizzare queste idee nuove che stiamo lavorando in progetto Soma. Va bene, grazie a Arash Ajudani. Grazie mille, è stato un piacere. È tutto, a domani.